Jerry. Di notte in sogno ho un angelo apparì. Mi disse al più presto tu ti devi convertir. Suora Ursolina o clausura fai tu. Prendi voti, basta questa vita da troia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Un mese qua, io voglio scappar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Un mese qua, io voglio scappar. Succhio qua, succhio là, sono una grande esfogacion. Prendo tanti cazzi al vento. Succhio qua, succhio là, tutti mi chiamano sfogacion. Prendo tanti cazzi al vento. Tu si na na na spo na na sfogacion. Tu si na na na spo na na sfogacion. Convento zero, sesso non era per me. Eran tutte sante zero, troie come me. Col velo l'extension si andavano a staccar. Manco un cazzo finto, io potevo usar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Da un mese qua, io voglio scappar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Da un mese qua, io voglio scappar. Succhio qua, succhio là, sono una grande esfogacion. Prendo tanti cazzi al vento. Succhio qua, succhio là, tutti mi chiamano Fogacion. Prendo tanti cazzi al vento. Tu si na na na spo na na sfogacion. Tu si na na na spo na na sfogacion. Il ritorno della troia, della grande super troia, nelle mani non lo sai, basta con sti santuari, baby. Di nuovo cazze dei maschioni, amo solo i peccioloni, cacca spillo e niente veli, maschi su, ai miei piedi. Succhio qua, succhio là, sono una grande esfogacion. Prendo tanti cazzi al vento. Succhio qua, succhio là, tutti mi chiamano sfogacion. Prendo tanti cazzi al vento. Succhio qua, succhio là, sono una grande esfogacion. Prendo tanti cazzi al vento. Succhio qua, succhio là, tutti mi chiamano sfogacion. Prendo tanti cazzi al vento. Succhio qua, succhio là, sono una grande esfogacion. Prendo tanti cazzi al vento. Succhio qua, succhio là, tutti mi chiamano sfogacion. Prendo tanti cazzi al vento. Tutti na na na sfo na na sfogacion.